A Bologna arriva l'iniziativa Enel in Circolo che promuove l'economia circolare in chiave sostenibile. Siamo qui per parlarne con Lucia Cortini dell'area Emilia-Romagna Marche, responsabile Enel. Ciao Lucia, buongiorno e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fugico. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Lucia, ti va di raccontarci un po' questa iniziativa, che cosa rappresenta per Enel? Per Enel rappresenta un progetto che è già stato avviato in altre città, sia su Milano, Verona, Padova. Piano piano attraverseremo anche altre città in Italia, ed è un progetto nuovo, innovativo, è un esempio di economia circolare collegata all'arte, quindi è un esempio, come posso dire, ad alto livello in questo momento, però che fa capire quanto con semplici cose si può riciclare, e quindi mai gli oggetti sono inutili ma possono servire a qualcosa. Quindi abbiamo iniziato a fare anche questa attività su Bologna, questo progetto, grazie a Cronopios e il Comune di Bologna che hanno abbracciato questo progetto Enel in Circolo. Come dicevi tu, la sostenibilità e il riciclo si collegano all'arte, e ci puoi raccontare in che modo? Sì, allora abbiamo avuto la disponibilità dell'artista Dario Tironi, che riutilizza questi oggetti che sono normalmente soprammobili, giocattoli, dispositivi elettronici, chiaramente di piccole e medie dimensioni, e le trasforma in delle opere d'arte. Queste opere d'arte però già sono state realizzate per gli eventi che abbiamo fatto già in altre città, e quindi già si può vedere quello che si potrà e che verrà realizzato poi con gli oggetti che a Bologna ci offriranno chiaramente tutte le persone che vorranno venirci a visitare e portare quindi questi dispositivi. E sono già presenti però nella città di Bologna, in particolare a Pozzo di Palazzo d'Accurcia, a Corte Isolane, nella Galleria Cavour e anche in un nostro spazio Enel di Piazza Liber Paradisus. Già sono presenti queste opere che sono state realizzate con degli oggetti, come dicevo prima, che sono inutili, ma che invece vediamo che diventano delle bellissime opere e che vengono poi esposte, come già quelle che sono presenti da oggi a Bologna. Per chi volesse partecipare, quindi per chi volesse donare qualche oggetto, come dicevi sì, tu, inutile, come si può fare? Allora, bisogna venire nei nostri spazi, e devo dire che sono numerosi nella città di Bologna, sono 6 spazi disseminati abbastanza nella città, a via Massarenti, a via Ponente, in via D'Azeglio, in via Costa, in via San Donato e a piazza Liber Paradisus. Quindi basterà recarsi sul posto, portare chiaramente questi oggetti, e poi dopo chiaramente provvederemo a dare e a regalare alla città le opere che verranno realizzate dall'artista Dario Tironi. È un'iniziativa che vuole veramente far capire che non c'è niente di inutile, e che il riciclato non è brutto, il riciclato è bello e può avere anche valore. Renderlo chiaramente un'opera artistica dà ancora di più il senso dell'importanza dell'economia circolare, anche a sensibilizzare maggiormente. Poi diciamo che ci troviamo anche in un periodo, perché l'iniziativa sarà attiva dal 20 dicembre al 9 gennaio, quindi ci si può recare in questi spazi per portare questi oggetti, e è un periodo, quello di Natale, dove spesso arriva il nuovo e tanti oggetti diventano vecchi e non più utilizzabili, o non ci vogliono più utilizzare, e quindi offrire una possibilità di riciclo, anzi di trasformazione in un'opera d'arte, penso che sia anche un momento importante. Perfetto Lucia, io ti ringrazio veramente per averci raccontato meglio l'iniziativa Enel in Circolo, e sì, ricordiamo che comunque ci sarà appunto già il percorso espositivo dell'artista Dario Tironi per le vie di Bologna. Grazie ancora Lucia. Grazie a voi, grazie a tutti, e grazie a tutti quelli che porteranno questi piccoli oggetti che Enel Energia trasformerà in delle opere. Grazie.